conosce invece il mostro. Sei tu. La biografia. La biografia, beh, è semplice, adolescenza più o meno normale, eccetera, di grande. Sì, per cui l'importante era che morisse il paziente per fare l'autopsia del cervello, per vedere se c'era la lesione cerebrale. Questo è voluto dire che appena dopo, con il terrore del segretario provinciale, aver vinto il concorso di ruolo, me ne sono andato, ho dato le dimissioni. E sono andato a Padova, dove una giusta ricerca, una buona ricerca del cerebro. Stavo 3 anni e poi anche lì mi sono subito scontrato col direttore, brillantissimo, bravissimo, tuttissimo, però quando gli ho detto adesso io voglio andare a finire a cercare l'inconscio, e dice no, l'inconscio no, ah, no, e allora io me ne vado. E sono andato in Svizzera. Non è che ha fatto il compromesso, dice no, l'inconscio no, ma il subconscio sì. Sì, no, no, no, io gli ho detto subito no, quindi ne parlo, la psichiatria l'ho imparata, me l'ha insegnata, adesso voglio vedere che si cerca sull'inconscio. Sono andato in Svizzera a fare la comunità, mi hanno dato subito il primariato di un reparto, dove era comunità terapeuta, Kreuzlingen. Ah. Senza il grande scontro con la società freudiana, in psicanalisi, poi io scritti, allora io per risentimento, siccome non dovevo scrivere quello, non doveva essere pubblicato quello, e invece non scritti nascere quello, invece tutti e tre pubblicati, e lì l'università di Roma, Lalli, mi chiamò a fare delle supervisioni. Facendo delle supervisioni, da 15 che erano, allievi psicanalisti diventarono 30, 80, 100 e finita la supervisione e cominciamo questa cosa. E io ho fatto un sogno e chiesero così gente che non conoscevo, che veniva spontaneamente, eccetera, a chiedere l'interpretazione di sogno. Venite persone da 100, sono diventate 200, 300, 400, 4.000, 5.000, che ne so. Quindi e io hanno fatto, dopo uno, hanno fatti due, poi hanno fatti tre e poi hanno fatti quattro. Ho portato le 2 ore prime a 4 ore. Lì, nell'84, mi sono fermato. Mi sono fermato e le cose continuano adesso. Ho abbandonato tutte le analisi individuali, già nell'80. Adesso faccio l'analisi collettiva. Nell'80 ti occupavi un po' di Marco Bellocchio, mi pare, negli anni 80. Negli anni 80, poi venne che venne Marco nel 77. Vedi? Nel 77 venne il gruppo, feci salto nel vuoto. Salto nel vuoto. Che ha sceneggiato con lei praticamente. No, salto nel vuoto lo feci un po' per conto suo, ma lui riconosce che lo feci, prima aveva fatto il gabbiano, aveva preso il testo da cieco. Poi lo fece e riconobbe che l'aveva derivato dall'analisi collettiva, eccetera. Poi, niente, poi da lì appunto le cose, questo era dal 75 all'80, venne lo scontro, l'ennesimo scontro, è tutta una vita di scontri, con il direttore dell'Istituto di Psichiatria, per cui mi ho trovato. L'Istituto di Psichiatria, Cerveda, c'era Pancheri, eccetera. Per cui, fortuna ha voluto, per merito di Gabriella Armando, eccetera, c'aveva un locale, io c'avevo un gruzzolo da una parte, e ho comprato questo locale che è l'attuale via Roma Libera, che è uno stanzone in cui possono entrare 150-200 persone. E da lì, 84, 94, 4, eccetera, e sono ormai 35 anni che faccio questo. Io, beh, capito, ma tu c'è qua di là, c'è te, povero vecchio, povero vecchio, ma che dici? E non hai manco fatto finta di proprio omaggio di dire che quando avevi 20 anni mi hai incontrato. Questo l'ho detto tante volte. A chi? A me? L'ho detto a Chianciano, certo. No, a Chianciano, no, certo, raccontato questa, sì, sì, chiamiamola simpatia, ti provocavo questo, beh, feeling sun che pathos, ci fu sun, all'inizio, beh, sun pathos è una cosa importante, perché ho raccontato il discorso grosso, sulla biografia ci può entrare, del conflitto, chiamiamolo così, che ho avuto da piccolo nell'adolescenza, sì, perché si mescolava il discorso sentimentale col discorso nazionale, cioè ci fu la guerra, c'era la guerra nel 42, 43, 44, eccetera, io avevo 12 anni e 13, c'è chiaro, e andammo sfollati, e sfollati io partecipai alla lotta partigiana, e i due che dovevano andare di leva e quindi invece avevano fatto i partigiani, Angelino e Giorgio mi presero e io seguivo loro. Erano due comunisti. Erano due comunisti e io con questi due maestri comunisti feci la guerra partigiana a 12 anni, eccetera. Non ho fatto niente, non ho nemmeno sparato. Però tenevo la base della cosa, la cartucciera, eccetera, eccetera, e correvo insieme, portavo ordini d'accordo con mio padre. Facevo la spia, sta arrivando lo squadraccio fascista. La piccola vedetta romana. Piccola vedetta lombarda, esatto. Poi questo ci fu. Quando però questo finì la guerra e quando cominciò il 48, io già avevo avuto sentore del 38, per cui il patto Wyszynski-Forribbentrop a me mi aveva lasciato di sale, pur avendo 7 anni. Dico, come i comunisti si mettono d'accordo con i nazisti per fregarti la Polonia? E io ero rimasto così. Non parliamo, ecco che arriva il feeling. Quando i comunisti decisero di votare il concordato. 47. Eh no, dico, qui non c'è. E quindi ho aumentato la distanza, nonostante il magnifico ricordo, e direi anche la formazione antifascista della guerra dei 12 anni, però dal Partito Comunista mi sono tenuto sempre a una certa distanza. Poi maturato, eccetera, eccetera, e lì arriviamo agli anni 50, e lì invece di votare, quando si trattava di votare, c'era una certa, avevi fatto questa separazione dal Partito Liberale. Avevo fatto l'unione con gli altri italiani, non era la separazione, era. Sì. Tutti i laici ci stavano dentro. Sì, appunto, questa cosa che io ho inteso come liberali di sinistra, certo, che andavano a sinistra, cioè difatti anche tu poi ti definisci socialista, eccetera, eccetera. E lì mi ricordo che su, beh, Fabriano faceva 30.000 abitanti, i votanti saranno stati 7-8.000, non so, eccetera, su 7-8.000 c'erano 3 voti per il Partito Radicale. Uno era il mio, uno era di un certo Guglielmo Ottoni, che era un dirigente dell'ENI, e uno di una ragazza che si chiamava Maria, una bella biondina. 3 voti radicali. Sì. Nel 56, non mi ricordo adesso l'anno esatto. Sì. All'inizio proprio del 50. E poi sto sempre seguito, sempre, anche se ormai io ho scelto di fare scienza, ricerca. Non prassi politica. Non prassi politica, questa prassi politica è rimasta quella della guerra, eccetera, e dico, io voglio capire la realtà umana. E allora, seguendo le peste di mio padre, che era un medico, un chirurgo, eccetera, feci il chirurgo di guerra, c'era tutto l'ospedale da campo, tipo strada che sta facendo, eccetera, bellissimo, per i bombardamenti arrivavano. San Lorenzo, io ero piccoletto. San Lorenzo. Sì, tutte queste robe qua. del e studiare medicina e quindi il funzionamento del corpo. Però a me non mi bastava, immediatamente ho voluto vedere il funzionamento della mente. E lì cominciamo il discorso. Mi scontrai con un organicismo mostruoso, per cui nessuno aveva pensato alla realtà mentale umana. C'era che la malattia mentale, e la cosa terrificante che tutto è così, è la ricerca della lesione della sostanza materiale biologica del cervello. Finché, dico io, attualmente c'hanno soltanto il glucosio, cercano il glucosio e questi tre, serotonina, noradrenalina, dopamina, i neurotrasmettitori che non sono altro, scusate la mia fantasia, che è cambiato nome a quello che diceva Ippocrate, quando diceva che la malattia è dovuta alla bile, al flemma, alla trabile, eccetera. Non hanno fatto un passo. Quindi da Venezia, che era tutto organicismo, me ne sono andato per fare, cercare ciclovia. Non si chiedevano mai e non si chiedono alcuni tuttora. Dico, ma l'odio lo conoscete? Non esiste. No, no, dico, la rabbia non esiste. Esiste soltanto se c'è la macchia rossa di glucosio, certo, più o meno aumentata o più o meno diminuita. Se c'è la piccola atrofia dell'ippocampo, e c'era una cosa veramente terrificante. Si potrebbe definire questo una scoperta un po' organicistica? Quale? La tua. Quella, dici, tutto il lì nel cervello ci sono queste cose e se studio la mente devo studiare queste cose. Certo, e infatti l'ho studiato perché l'ho studiato all'università e l'ho studiato i primi perché io ho fatto la specializzazione. E quei tempi non c'era la separazione tra neurologia e psichiatria. Per cui io sono specialista in neuropsichiatria. Certo. Cioè sono neurologo e psichiatra insieme. Quindi la neurologia... E come stai con i neuroni? Come va? I neuroni? Beh, non so se funzionano, adesso decidete voi. No, no, ma come vanno questa storia dei neuroni? Cioè? Come, per esempio, come si trasmettono? Come si incontrano? Come si incontrano? No, bisogna vedere degli effetti. No, te ne parlo. Non si può parlare di neuroni, perché i neuroni fanno funzionamento, eccetera. Certo. È che da lì, ma io direi non solo da lì, ma da tutto il corpo, vengono fuori questi che genericamente si potrebbero chiamare affetti. Però la matrice degli affetti si chiama pulsione. Chiaro. È quella che... Il nome esiste, ma nessuno, il cretino di Freud, parla della pulsione, che la pulsione sarebbe la fame e la sete. Amico mio, la fame è quando uno ha abbassato la glicemia, è un fatto organico puro e semplice. Infatti non c'ho la mai fame. È quando uno è infatti non c'ho mai fame quando faccio il sopra ecco, la fame. Già, non è una pulsione la fame e la sete. La sete è perché c'è disidratazione. La pulsione è un'altra cosa. E quindi ho pratificato la funzione dell'annullamento che ha mandato su tutte le furie la società freudiana. Scusami, ho fatto quella domandina, perché c'è qualcuno che sta studiando, appunto, credo in modo interessante, la comunicazione, diciamo, a partire da neuroni. E sono curiosissimo di sapere se prende il Nobel o no, insomma, sì, sì, perché la cosa mi appassiona, grosso modo. Sì, ma lì sai perché ma io guarda ti dirò su piccole cosettine, siccome se uno studia in filosofia greca che ci sono gli atomi che cadono, poi si incontrano e via dicendo, eccetera. La malattia organica del cervello che distrugge i neuroni non intacca minimamente la realtà mentale. Sì, da Pasteur, che le fece le più grandi scoperte dopo che aveva avuto una trombosi in emorragia cerebrale, che gli aveva sfasciato mezzo cervello, a modugno, eccetera, che funziona lo stesso, anche allo stesso modo. Come funziona? Cretino che era prima e cretino è rimasto adesso. Mimmo, uguale. Ma scusa, Mimmo è divenuto il presidente del partito. Quando in quelle condizioni vuol dire che in quelle condizioni, quindi la realtà mentale assume un'autonomia rispetto alla lesione cerebrale. Ovviamente, entro certi limiti, certo. È chiaro. Ma però il cervello ha delle capacità di sostituire la funzione dell'una parte con l'altra parte. si chiama un... Scusa, visto che abbiamo un po' sistemato Freud, posso fare qualche domandina? Fai la domandina, ma certamente. Faccio dei nomi. Reich. Wilhelm Reich. Certo. Quello tentò, sì. Era comunista, super comunista, e tentò di... lasciamo stare gli orgoni, trovare, niente, no, gli orgoni no, parlo di Reich. Al di là di quello, cercò, se vogliamo regalargli qualcosa, di portare questa ricerca con la psicanalisi, della psicanalisi al comunismo, che lui era un fervente comunista. Però è stato un anticomunista, poi faccenda degli orgoni, ma è stato un anticomunista poi creativo. No, ma non era comunista lui, Wilhelm. Sì, no, dico, ma poi di fatto tutta la sua analisi delle, diciamo, delle questioni di massa che si creano, il rapporto fra dittatura, comunicazione, anche l'equilibrio affettivo, sentimentale, certo, sessuale, certo. Su lì c'erano delle cose interessanti. Però teoricamente non ha lasciato granché, è un tentativo di occuparsi di questa cosa invisibile che è la ficzione, che sono questi affetti che hanno eccetera, ma è finito con i raggi cosmici, con la cabina telefonica, è per cui i raggi passano attraverso, allora ti ricaricano, insomma siamo a livello di... Jung. Jung io l'ho sempre escluso per due precise ragioni: che lui avrebbe trovato che nel fondo dell'inconscio c'è la dimensione religiosa. La seconda cosa che non viene mai detta, che Jung, oltre che parlare con l'albero del suo giardino, era una camicia bruna. Era un nazista dichiarato, chiaro, esplicito, postando in Svizzera. Jung fu quello che, essendo psichiatra, nel Burghese stava con Breuer nel 910, angiosamente prima entusiasta di Freud, eccetera, e poi se ne separò, fece per conto suo, soprattutto da questa faccenda della sessualità. Per cui dice, la libido non è sessualità, è un'energia universale, è un'energia generale, eccetera. E poi si dette a fare tutte queste letterature, eccetera, ma io l'ho sempre escluso anche dalle mie ricerche. Continuiamo ancora un po', Adler. Adler fece questa analisi individuale, la chiamò così perché si separò, perché la sua teoria, non accettò la teoria freudiana della sessualità, di questa sessualità infantile, eccetera, eccetera, o direi più profondamente non accettare né l'uno né l'altro questa teoria del complesso di Edipo, che tutto è basato sul complesso di Edipo, cioè il figlio, cioè la tragedia di Edipo, il figlio che ammazza il padre, che sposa la madre, desidera, eccetera. Quella è la cosa che c'è con la potenza, per esempio. Quale potenza? Adler mi pare che si interessa. Complesso di inferiorità. Cioè l'attività dell'uomo è dovuta a una reazione di fronte a un'inferiorità. Quindi quella che io chiamo vitalità sarebbe una reazione per compensare questa carenza. Che il problema sia la carenza non sarebbe un'idea sbagliata, ma è troppo generica. Cioè che nella ricerca che l'uomo debba fare un lavoro di elaborazione per superare delle, non dico inferiorità, perché tante volte sono delle carenze, delle cose che... Perché io sono convinto che l'uomo è sempre in sviluppo. Questa è l'altra cosa. Però l'altra cosa, adesso attento, se non ci disperdiamo, cerchiamo di prendere quello che lui ha detto, di quello che è successo adesso, che è stato proposto, sono state proposte delle parole che sono importanti per noi, fondamentali, sia per me che faccio ricerca sulla realtà umana, sia per te che fai politica per i diritti dell'uomo, per la libertà dell'uomo e vorrei dire quindi la realizzazione a livello della coscienza, a livello eccetera, io cerco la realizzazione anche a livello inconscio, sempre cercata. Per cui questa parola umanesimo va considerata e noi dobbiamo fare questo concordato, abolendo quell'altro, chiaro? Di prendere questa parola e considerare l'umanesimo religioso. Per cui Ratzinger dice che la verità, la realtà dell'uomo sta nelle sacre scritture e noi dobbiamo seguire quello che c'è scritto nelle sacre scritture. Chiaro? Poi c'è l'umanesimo debieco razionale, dell'illuminismo e poi la rivoluzione francese, poi la democrazia moderna e tutte queste cose. Poi io ci metterei l'umanesimo comunista. Tutti lo chiami tre. Umanesimo? Sì, aveva un'idea della realtà umana. Aveva un'idea della realtà umana e c'era questo afflato, questa proposizione di riscattare l'uomo dalla sofferenza, che era dovuta appunto alla metà, una parte dell'umanità che sarebbe il capitale che distrugge, il sacrifica e la stragrande maggioranza del lavoro, delle cose, eccetera, eccetera. C'è questa idea di sfruttamento. Però, appunto, mentre come poi è successo in politica, dal punto di vista della sanità del corpo, di eliminare le sofferenze, sono state bravissime. La medicina, la chirurgia russa era ad altissimi livelli e lo è tuttora, io so, a Cuba. Per cui alle scuole, agli ospedali si dedicano al 100%. Non prendono in considerazione affatto le esigenze. Quelle di cui ti sei occupato tu, quelle di cui mi sono occupato io. È chiaro? Io abbandonando, non ho mai abbandonato perché il metodo è sempre quello medico, ma la cura del corpo, io dico no, non mi occupo della sofferenza fisica, mi occupo della sofferenza mentale, ecco, mi interessa quella cosa lì. E tu, facendo tutta questa cosa in questi 50 e 60 anni, hai fatto la stessa cosa, ti sei occupato delle esigenze, qualche cosa che va al di là della sofferenza fisica e dei bisogni, esattissimo. Quelli si danno per scontati, ovviamente, e allora, che vanno soddisfatti, i bisogni vanno soddisfatti. Facciamo un salto. C'è un'uguaglianza assoluta sui bisogni che è giusto, perché il culo di Berlusconi è uguale a quello dell'operaio. Per cui la poltrona deve essere uguale per tutti e due, è chiaro. Su quello non si discute, lo prendo a priori questo comunismo e questa cosa, però non basta. Non basta questa utopia strana. Quindi l'uguaglianza di culo, l'uguaglianza. Quella assodata, quella senz'altro. Quindi l'appendicite acuta è uguale in Montezemolo e nel morto di fame. Certo. E quindi quella va trattata in quel modo. Per cui in Italia questo funziona. Questa abbiamo una grande cosa, che è della Bindim, ma non è. Dell'assistenza sanitaria nazionale, sì. Per cui tutti hanno diritto alla cosa. Quindi la riforma adesso di Obama, insomma. Quella che vorrebbe fare Obama, ma si scontra con certi interessi di case farmaceutiche e assicurazioni. Quello mi sa che lo fanno fuori uno di questi giorni, che è quello. Sì. E non mi fido mica degli americani. E io sì, invece, solo di loro. Dunque, no, sì. Allora veniamo più vicino, l'antipsichiatria. Quindi dobbiamo superare questa cosa qui, perché se l'illuminismo, in qualche modo, dando il primato dell'uomo alla razionalità, ha lasciato con questo delirio questa realtà che è un terzo della vita. Sono 35 anni in cui noi viviamo una vita senza ragione, senza comportamento, senza parola. Ci vogliamo occupare di questa cosa. Noi non è un plurale maiestatis. No, noi tutti gli esseri umani devono dormire 7 ore, almeno. Ah, e allora come faccio io? Tu ne dormi meno? Tu capisci subito che io sono un anormale, ti conosco. Ma dormi poco? Certo, io dormo moltissimo. Siamo differenti. Non ti spiego. Io dormo 8 ore tranquillamente. Dunque, io dormo anche 12 ore, ho l'arte di andare a fare pipì dicendo pannella non te muove, piglia, fa la cosa eccetera, proprio, e mi riaddormento subito, quando posso, e mi accade di rado, però quando posso 12 ore ci sono, normalmente poi sono poche, invece molto di meno. Sono 6, 7, 4. Vabbè, è sufficiente, adesso tu hai fatto 50 anni, quindi 6, 6, 7 ore sono sufficienti, 5, 6. 4, 5. Poi no, ma c'è un margine, non c'è un'ora fissa. Sì, okay. A me mi diverte, insomma, io ci metto quindi anche un po' diverso lo sono. Quindi un po' diverso lo sono. Sì, sì, sì, ma no, ma non tanto. Perché... Basaglia. Ah, non ne parliamo di Basaglia. No, parliamone. Parliamone, però scusa. Prima avevo detto l'antipsichiatria. È questo. Parliamo prima. Volevo dire, fammi finire questo discorso, se no perdiamo il filo. Cioè, nel senso che nell'illuminismo e nella razionalità, nell'intrama, lascia questa cosa dell'inconscio, anche se dice che è animale, perverso, eccetera. Eccetera. Nel comunismo l'inconscio non esiste. Questi 33 anni di vita... non esistono. E vi rendete conto che io sono stato costretto a occuparmi di pulsione, di annullamento? Per quelli come non esistono. E purtroppo tenete presente che in filosofia, prendete tutti i tomi che volete, non viene preso in considerazione, il pensiero del sonno. Come se da Emanuele Severino a Rovatti o tutti i bravi illustrissimi filosofi. Scusa l'ignoranza, ma quello lì con quel cretino, Freud, non ne parlava dei sogni pure un po'? Sì. Sì, però come dice, non viene preso in considerazione? Dai filosofi, ho detto. Ah, scusa. Dai filosofi. I filosofi parlano sempre del pensiero, della coscienza, della veglia e del comportamento. È come se quello lì fosse morto. Uno che non ha pensiero è un morto. Lo dice anche questa famosa cosa del 68, che se il cervello non funziona, uno è morto. I filosofi non si sono mai chiesti qual è il pensiero del sonno. Oh, ragazzi miei, qui è il pensiero del sonno, c'è, è come c'è. E non è parola, non è pensiero verbale, non è cedere, è immagine. Guarda, devo dirti così una cosa, i più vecchi compagni miei lo sanno. Per cavoli miei, a un certo punto, mi pareva di scoprire, verso i 17-18 anni, quando magari, non so, mi pigliavo al di là del bene e del male, di Nietzsche, aforismi, e quindi non riuscivo ad andare oltre la decima e la quindicesima pagina. Qualche volta mi masturbavo per la cosa che creava con l'istantino, no? E però ho detto, ma voglio provare. E mi è accaduto di sapere come mi svegliavo. Allora è cominciato con un riflesso, ma perché cazzo quando mia mamma mi viene a svegliare presto per fare cose... non gli faccio un bel sorriso e non la ringrazio, che invece era l'opposto. E riuscii. Dopodiché mi accadde spesso, nel periodo in cui facevo questo esercizio, di svegliarmi la mattina dopo in cui avevo maturato il pensiero che ci avevo la sera, no? Bravissimo. E... quindi ecco che stai benissimo nella ricerca, nel senso che loro in questi tre umanesimi, domani uscirà l'Est, e io ho fatto un articolo intitolato Le tre streghe. Sono tre, che però lì ho detto che era organicismo, che era l'antipsichiatria e la psicanalisi. Qui sono questi tre umanissimi, bisogna raggiungere un quarto, e quello che tu dici è proprio che i filosofi non hanno mai capito, non si sono mai visti che cosa succede quando uno va a dormire e si addormenta, cosa succede quando uno si sveglia. E qui c'è la grande parola che Marx aveva. Però l'ha detta, ma trasformare il mondo, ma il mondo non si deve trasformare, gli ecologisti si arrabbierebbero. La parola trasformazione. Non è un caso che i filosofi mi pare parlano poco degli sciamani e di tutte le altre cose. Sì, no, per loro è magia. Sì. Figuriamoci. Il povero Giordano Bruno ci ha lasciato la pelle per questa storia, perché qui i filosofi sono legatissimi anche al pensiero religioso, eccetera. Cioè l'inconscio, eccolo che veniamo all'attualità, quello che ti dicevo prima. In questo umanesimo religioso c'è che la realtà umana la conosce le sacre scritture, e nelle sacre scritture c'è la storia del paradiso terrestre, c'è la storia del peccato originale. E allora, proprio l'altro ieri, quattro giorni fa, quando è stato, il signor Ratzinger ha detto che la Madonna è l'unica che è nata senza peccato originale. Questo significa che tutti quanti, ormai siamo quasi 7 miliardi, nasciamo col peccato originale. Lo sai che significa? Sì, vabbè, ma questo devo dire... Lo so che significa, significa, e vedi la mia eterna ribellione, perché questo significa che l'inconscio è incurabile. Perché peccato originale vuol dire inconscio perverso. Vuol dire inconscio animale, come diceva Platone, come diceva il mondo greco, eccetera, eccetera. Mentre io ho scoperto che uno nasce sano, non si capisce il concetto di malattia alla nascita. No, il concetto di malattia è qualcosa che interviene dopo. Scusa la mentalità medica. Ci deve essere per la malattia un'eziopatogenesi. E quando uno nasce, qual è l'eziopatogenesi? Fatto salvo le malattie genetiche? Ma no. Scusa, non c'è. Taglio. Quindi la malattia viene dopo. Sì. La nascita è sana, quindi non c'è il peccato originale. Sì, no, vabbè. E la cosa interessante è diceva anche, sai chi? Maometto. Sì, permetti una cosa, me la permetti? Non c'è peccato originale, via dicendo? Scusami, quante parte dell'umanità tu credi che creda al peccato originale? I cristiani. Ebrei cristiani, giudaico-cristiani. Ma tu credi che coloro che credono in queste parti del loro credo? Io vorrei dire, se non credono al peccato originale perché è una favola, credono all'inconscio perverso. Ma, e l'inconscio perverso significa incurabilità della malattia mentale. Sì, ma se ce l'ha. Come se ce l'ha? Se ce l'ha. Se questa cosa esiste, l'inconscio vive. C'è dappertutto, in tutti. L'ho detto prima. Sei un po' totalitario, assolutamente dittatoriale, questo è un dato No, dittatoriale, totalitante, che è diverso. Tutti noi nasciamo a un certo momento e poi abbiamo un anno e mezzo, due anni di vita senza parola, senza ragione. Lì c'è un pensiero. C'è un mucchio di ragazzini che capiscono a 8 mesi, 9 mesi, 10, capiscono. Ma se vuoi ti faccio lo sconto, ma per 8 mesi non c'è parola, c'è ragione, non c'è coscienza. C'è quello che poi diventerà inconscio. Quando matura viene maestro, ti chiedo scusa, non so se sono darwinista, non lo so, ma voglio dire... Sul piano antropologico, la specie umana, no? Questa la specie animale umana. No, scusa, ci sono nel corso dei secoli delle variazioni che possono essere individuate anche il cervello e tutte quante le altre cose? È possibile oggi, come dicono, che la scienza riesca ad individuare chi ha non solo predisposizione ma addirittura predestinazione? Di quella malattia o quell'altra? Malattia genetica, certo. Allora, voglio dire, mi pare che uno, quando dici tutti, allora dovresti dire tutti oggi, perché nel frattempo cambia. No, perché abbiamo fasi di sviluppo, mi pare, anche... Il passaggio dall'animale all'uomo? Sì, ma non solo, non solo quello di milioni d'anni, ma dico, probabilmente in questo momento sui 7 miliardi... esistono, come dire, componenti che sono ad una fase ed un tipo di sviluppo e altri un altro tipo di sviluppo. Cioè, per esempio, lì dove il fondamentalismo religioso scatenato, no? Sì. È quello che mi pare si ritrova un po' in tutte le religioni, tranne quella buddista, penso, sì, per quel poco che ne so, sì, anche perché quando tu parli delle scritture delle religioni rivelate, sì, cioè quella scrittura è quella di Dio, insomma, no? Mentre nel buddismo le scritture sono scritture di persone come noi, che hanno scritto, certo, certo, e sì, sono, sì, prese, certo. Quindi diciamo ci sono queste cose, però quello che mi importa chiederti, questa evoluzione, no, direi organica, certo, è anche legata a fatti ambientali, a fatti storici e sicuramente anche qualche nesso con le soggettività. Certamente che, sì. Oh, benissimo. Allora, però in ogni modo, sì, per, se non vuoi un anno o un anno e mezzo, per 8 mesi c'è il rapporto, soltanto il rapporto interumano. D'accordo. Perché la nostra prole è inetta al 100%. Sì. Quindi morirebbe immediatamente se non fosse accudita. No, volevo solo porti una domanda banale. No, no, molto bene. No, la domanda banale ed è questa. Escludi che questo, abbiamo detto 8 mesi, tra virgolette, naturalmente, fra 300 anni, sì, sono 4 mesi o 2 anni? Non ti ho capito, scusa. Cioè, oggi tu dici quel che sappiamo. Io voglio dire l'esistenza, sì, di questa realtà senza coscienza. No, certo, ma dico perché oggi. È stata per tutto. La domanda che mi e quindi ti faccio. Noi parliamo della specie animale umana, sì, che ha un suo sviluppo. Lo sviluppo significa crescita o decrescita, non voglio ma entrare nel fatto qualitativo. Certo. Ma dico, quindi, se oggi tu dici, oggi 8 mesi o un anno, quello che è, mi pare che teoricamente non sappiamo fra 2 secoli se sarà 4 mesi o se sarà 1 anno. Ma non conta il tempo, sì, conta no, che ci sia. No. Che poi duri 4 mesi o 1 anno e mezzo, fa lo stesso. L'importante è che c'è una storia che dopo la nascita, alla nascita, quello che conta non è il rapporto con la natura. Perché il neonato, guarda, morirebbe su immediatamente. Questo siamo d'accordissimo. D'accordissimo. Il rapporto interumano. Su questo siamo. E bisogna prendere quello. Ma guarda, ti dirò di più, io forse, siccome sono eccessivo in tutto, ritengo che in realtà, anche mentre quello sta nella panza, c'è un rapporto interumano, sente. No, no, no, ma naturalmente tu mi puoi dire che l'interumano comporta 2 soggetti. Comporta il pensiero. Sì, sì, 2 soggetti di pensiero. Io dico che a naso nulla mi vieta, non mi dà, tu sai come la penso sul piano della nascita o meno, e su questo mi pare ci incontriamo. Sì, sì, sì. Ma io non escludo in realtà che anche quell'affare lì che sta nella pancia, sì, che a cui sono preclusi con la vista, ma non con l'udito. Perché? Perché con la vista, con la vista vede solo quello. È buio, non, ecco, non vede niente. Appunto. Perché non c'è la luce. Perciò ho detto, con la vista no. Ma con l'udito perché? Dice che arriva l'udito. Perché ma, dico, il matematico che l'udito gli arriva dentro la panza, eh? No, no. No, no. Beh, vabbè, questo. Ah, beh, sì. No, scusa, ah, scusa, sì. Però è il fatto che devi considerare. Massimo, devi considerare che il feto non reagisce. Il feto è un fatto biologico puro e semplice. Beh, la biologia non esclude che senta, eh? No. Non puoi superare la parola. Tu mi puoi dire, no, tu quello puoi, che è la reazione. Non pensa. C'è stata una polemica sui giornali adesso, non l'abbiamo fatta, sull'est, eccetera. Quella reazione è un riflesso. E il riflesso esiste nella ranocchia, sì, decerebrata. Sì. Cioè, se tu pizzi una zampetta, si ritira quell'altra. La reazione del feto di fronte a uno stimolo tattile. Tattile, ti e le onde sonore. Ti seguo anche in questo. È riflesso. Cioè una cosa alla nascita cambia mero, tutto. Il mero riflesso. Esatto. Un'altra cosa è un riflesso che viene a che fare anche con il riflettere. D'accordo? Ok? Un riflesso. Sì, sì, no, ma non è riflesso. Il riflesso è un fatto biologico in cui non c'è la mente umana. Riflettere, scusa. Non c'è la mente umana, no, ma c'è dico soltanto un fatto neurologico. Nel nostro linguaggio, anche il tuo, riflettere è un'attività intellettuale. Riflettere sì. Appunto, allora voglio dire, ma personalmente nella mia ignoranza sono un tantino meno tassativo, io te dico che quello lì dentro... Adesso facciamo il concordato. Che rifletta pure. Non... Facciamo il concordato. Andiamo sui temi allora. Visto no, che allora no. Il concordato è questo, lo sai grazie. Che se finché tu pensi in questa maniera inesatta, ci torna il problema dell'aborto? Adesso tanto per parlare di politica? Ma come no? Solo già, che io non ho... Mentre con la mia ricerca e con le cose che no, il problema dell'aborto non è un problema. Ma certo, è un fatto solo dialettico, però, se mi consente. Ah, beh, sì. Però, andando in politica, facendo la parte del concordato della prassi politica, dobbiamo liberare le donne dal senso di colpa di essere assassine. Maestro, voglio sentire, dopo che abbiamo sistemato un po' Jung, Adler, Freud... È Basaglia. Basaglia è un poveraccio. Basaglia, io ho visto. Basaglia stava accanto a me, così. Nel 60. Ah, nel 59, 60. 61 e 62. Trieste. Era nella clinica di Padova. Sì. E aveva scritto 70 lavori sull'Antasari Analisi. Cioè quella di Bisvanger. Sì. E non aveva molto messo in evidenza che la derivazione filosofica di Bisvanger è Heidegger. E adesso diventa chiaro da Fee, dalla Francia, da tutta questa ricerca che c'è stata negli ultimi anni, che Heidegger è il teorico del nazismo. Per una deformazione, possiamo anche dire, di Nietzsche. Siccome Heidegger è cattolicissimo fino guarda, a 20 anni, non escludo che ci sia un personaggio molto importante e abbia spesso sottolineato l'importanza di Heidegger. Ah, ma in filosofia era stato tanto apprezzato. No, parlo del professor Ratzinger. Ah, già, è un nazista. Ma l'hai visto? Il fratello? Ratzinger. L'hai visto il giornale di oggi? Il fratello di Ratzinger. Sì. Stava con i nazisti, divisa nazista. Vabbè, con questo? Lo stesso Ratzinger è stato nazista. Quando tu... gioventù, eccetera. Quando tu a 7 anni, siccome eri più giovane di me... Ma me interessa. Sapevi solo di Molotov-Ribbentrop. Io sapevo già che contemporaneamente, mentre facevano quella cosa, altri comunisti erano stati mandati d'urgenza ad assassinare Trotsky. Sì. Allora che è il 42. Hai capito, grosso modo. In Messico, sì. Certo, ma guarda, ti dirò di più, il mondo com'è strano. Sì. Ci andò un comunista che aveva grande fede comunista, che aveva moralità, aveva compattezza dal suo punto di vista. Sì. Vittorio Vidali ebbe a che fare con questa operazione. Sì. E dal 1959... Vittorio Vidali fu uno dei vecchi comunisti con Terracini e Fausto Gublo che mi difendeva dove doveva, nei vertici comunisti, perché dal popolo comunista non c'era bisogno che mi si difendesse. E il Vittorio Vidali, può raccontarlo l'ex sindaco di Muggia, Villers-Bordon, che allora era. E Vittorio Vidali, quando io andai a occuparmi un po' di Trieste, Almirante, eccetera, pare che li convocasse e dicesse: oh, guardate, quello lì, Pannella, non lo toccate, quello è un compagno. Questo mi fa molto piacere, perché no, la mia... Mi fa piacere dirlo, perché ogni volta che lo dico pure a Massimo, quando faccio il nome di Vittorio Vidali, perché? Perché credo, appunto... alla teoria come teoria di fatti, come teoria di formiche, come teoria attorno alla roba, al Partenone o cose di questo genere, no? Quindi teorie di... Allora, chiarito questo, quando tu mi dici anche l'umanesimo... Heidegger che hai in comune... col professor Ratzinger, non me ne frega niente che il fratello fosse non so che cosa, no, c'è l'altra questione, che io Rezzi dovevo avere 18 anni, un testo che di Dürrenbach, che poi è stato del concilio importante, che era il dramma dell'umanesimo ateo. Ecco, è quello che dice Ratzinger. Sì, appunto, e io me lo sono letto, mentre guarda che interessante, come intelligente, io sarò un umanesimo ateo, eccetera, però sto bene. Esattissimo. Dico, hai capito? Ho continuato e quando ecco, sei l'umanesimo ateo è quello che interessa a me e sarebbe il quarto. Grazie a Dürrenbach, dopo le tre streghe. Non mi fa, dopo Dürrenbach, grazie a Dürrenbach, così quando questi dal Vaticano con le loro ossessioni per diavolo oggi e via dicendo tutte quelle cose lì e ridicono no, il dramma dell'illuminismo, il liberalismo, tutte quante queste altre cose, il relativismo, tutte queste altre cose, devo dire, li ascolto senza troppa preoccupazione, perché mi viene da sorridere un tantino e dire questi sono pericolosi per un'altra cosa, non per il pensiero. Sono pericoloso per la loro sete di potere, per quello che in altri tempi avrebbe detto la loro simmonia, no? Che sì, ma questa violenza del potere, adesso passiamo ad un'altra cosa, io sono fuori di me, per il discorso che qui stanno, io non sono più un medico, il medico è il vescovo, è cosa sta lui quello che deve fare il medico, se adopera la pillola, se non adopera la pillola, se adopera i ferri chirurgici, quale medicina o non medicina, lo dice il vescovo, non lo dice più il medico, siamo completamente fuori, completamente. Ma anche la politica, la legge buona è quella, tutto sanno, sono onniscienti. Ma torniamo alla teoria, dopo vediamo anche questa pratica di mettere insieme questa faccenda dei liberali di sinistra con l'altra parola socialismo, mi interessa questo, quello che il povero sono sinonimi, sono storicamente bravissimo sinonimi. E mi convince, perché questo ci leghiamo un po' a Chiangiano, a quello, un discorso più in questo senso, però per la tua magnifica prassi politica è bene, è sano, è valido che hai delle basi teoriche ben più solide di quella del liberalismo e dell'illuminismo. Ma anche cioè, del socialismo, anche lì, gli ismi hanno antropologicamente un loro tempo. Questa evoluzione antropologica è quando l'uomo, invece di vivere scisso, per cui per 16 ore, o 17 ore è razionale, intero. Non è intero, è razionale, lucido, cosciente del linguaggio articolato. E quindi però, anche e poi non so perché di notte quando diventa animale, quindi anche diventa peccatore, diventa non so, Caino, non so bene che cosa. E se si supera questo, e si supera con quella parola di prima, la trasformazione. La trasformazione del pensiero da uno all'altro, dall'immagine, certo. Ti rendi conto che chiamo dialogos. Questo lo possiamo scoprire, se scopriamo che non è che il bambino, i primi 10 mesi di vita se vuoi, o un anno di vita, è senza pensiero, quello che dicono tutti, compreso quel cretino di Freud. Per lui il pensiero comincia col linguaggio verbale e il linguaggio articolato. Chiunque sia, io ritengo che sia un cretino. Grazie. Perché io credo già con quelle che ho a 2 mesi. Mentre lì evidentemente c'è un pensiero che con lo svezzamento si trasforma. Riusciamo ad avere abbastanza fantasia. Tu, radicale, con questa... continua la fantasia, ti è indispensabile, sì, anche perché... che questo si ripete in continuazione quando noi ci svegliamo, come se fosse un acquisire la veglia, la coscienza, il linguaggio articolato, il cammino, la deambulazione, quindi lo riviviamo. Ogni risveglio è una nascita. È una seconda nascita. Perché c'è la fantasia, ricordo, dell'esperienza vissuta. Questa fammi dire una cosa divertente, simpatica. Lo dico spesso. In fondo tu parli della conoscenza, no? Perché, ovviamente. Appunto, dico, a questo punto c'ho un orribile personaggio, ma serio poeta, che è Paul Claudel, che fa spesso anche violenze... semantiche, filologiche, ma diciamo poeticamente le fa. e lui scrive, invece di connaissance, C-O, 2-N-A-E-S, quindi conosco, da quello vengono le 2-N, sì. Invece lui fa co-naissance, nascere insieme. E quindi la conoscenza è un nascere insieme ad una terza cosa. Lo sai che regalo mi stai facendo? Ma io ci spero di fare un po' di regalino qualcosa. Che io ho definito il primo pensiero della nascita umana, che è immagine indefinita. Tanto è vero che non la chiamo più manco immagine, ma capacità di immaginare. Gli ho dato il nome di certezza, speranza, certezza che esiste un seno. Cioè, noi nasciamo con la convinzione che esiste un altro essere umano. Siamo sociali, e questa è l'elaborazione dell'uomo per sua natura essere sociale, che diceva Marx. È chiaro. Cioè, non c'è il narcisismo, come diceva, certo, che esclude qualsiasi rapporto, come diceva, quel cretino. Certo, certo. Ma infatti la mitologia serve sempre molto, la vecchia mitologia, anche il fatto è mortale, no? Perché... Certo. Si specchia e muore. E questo lo diceva anche Claudel, cioè con la nascita una conoscenza. Sì, ma è proprio è conoscere, conoscersi è conoscere, e quindi la cosa che nasce è terza rispetto alle due altre, e l'oggetto conosciuto anche cambia per il fatto stesso di essere conosciuto, il conoscente cambia per quello, no? Grosso modo. Sono delle piccole fissazioni che ho da molto tempo e mi sono care. Adesso però Basaglia. Ah, di nuovo Basaglia, ne abbiamo perso, quindi stavamo lì a Padova, poi nel 62 fu mandato elegantemente via, perché non aveva visto un paziente. Aveva passato 25 anni di università dentro la biblioteca a fare le cose, perché si sapeva. E poi si è così che adesso capisco, era la bassezza di Padova. Ma si è vendicato perché lui ha giocato molto sul dialogo, il dialogo. Un'intervista che ho visto 3-4 anni fa, del 1978, quando fu approvata la 180, che non è di Basaglia, ma di Orsini, dice che... quando io stavo all'università mi hanno insegnato che esiste la schizofrenia, la depressione, la neurosi ossessiva, la personalità psicopatica, tutta la nosografia della psichiatria. Sono andato a Gorizia e mi sono accorto che non esisteva niente. Lui prima è andato a Trieste, poi a Gorizia. No, prima Gorizia. Ah, prima Gorizia, sì. Ah, sì, sì, sì, sì, poi sì. Gorizia era un mezzo paesetto, proprio in campagna, fuciliato proprio. C'era una splendida frontiera a Gorizia, c'era una splendida frontiera. Come non esiste la malattia mentale, non esiste niente, non esiste la neurosi, no, è soltanto vittima di persecuzioni politiche. E c'è questa formula che l'irrazionale viene coartato, imprigionato ed escluso dalla società dal razionale. La ragione, la società razionale esclude l'irrazionale, come se l'irrazionale fosse soltanto pazzia. Difatti lui poi identificava la rivolta dei malati di mente con quella delle donne, come se le donne fossero malati di mente, fossero cerebropatici, fossero epilettici gravi. No, lui fa questo. Dimmelo tu che cos'è, è uno stupido, è un delirante, come si fa? Uno psichiatra dice non esiste niente. Come non esiste niente? Discute che se ti rispondo, magari mi posso la domanda, dico è un delirante. È un delirante. Ma lo dico perché io credo all'elogio della pazzia, quindi. Sì, no, ma no, è un delirante, difatti poi morì di tumore cerebrale. C'aveva il tumore ai frontali, due. E tu, guarda che all'inizio ho detto c'è dell'organicismo in te, e infatti mi pare che... C'è, no, perché in qualche modo, ma per carità, il cammino. No, questo è per aggiunta, per dire che poi ha distrutto la psichiatria. Per cui la... L'ha distrutta. Sì, sì. Tirelli no, non deve... Se mi consenti, ma ti rendi fatto conto? Ha il valore di esperimento quello che lui faceva. No, no. No. No. Diciamo ha fatto una prassi politica? È come portare alle Olimpiadi cardiopatici, zoppi, eccetera. Malati, quelli andavano curati. Non si può fare una prassi politica con i malati di mente. Come non si può fare le Olimpiadi con i cardiopatici. Sì, no, chiaro. Ma negargli... Cioè, negare la malattia. Questo lo dice anche Cervi. Ma negargli... adesso sono due cose diverse. Non è la stessa. Non è possibile, è proprio distrutto la psichiatria. Negare qualsiasi, direi proprio, conoscenza scientifica a Basaglia o a chi che sia, forse è imprudente. Non è che... No, lui la conoscenza scientifica ce l'aveva. Ma diceva che non avevano niente, che non c'era, che un Pinello non c'è stato, no, ma questo... che un Eschirolo non c'è stato, che un Krepelin non c'è stato, però che poi abbiano detto cose inesatte. Scusami, che poi, d'accordo, nella ma sua che formazione non era totalizzante nel suo pensiero mai, e di conseguenza quello che lui probabilmente immetteva è percentuali diverse di razionalità, di non razionalità, di patologia o meno delle cause. Cioè, in questo non mi pare lui fosse un dogmatico, no? Anche perché c'era una strana storia, perché possiamo dire, oltre che seguace di Bisvanger e Heidegger, perché era studioso specialista in Cimancaglieri, e di questo erano in tre, e c'è il discorso della che seguiva Foucault. Sì, e beh, hai detto niente. E questa è la cosa terribile, teoricamente. Mi fa dell'irrazionale una cosa che è soltanto malattia mentale. Sì, ma appunto sono d'accordo. L'irrazionale è quello di Picasso. L'irrazionale è quello di Caravaggio. Sì. Nell'irrazionale c'è l'arte, c'è il genio. Guarda, e lui me ne fa pazzia soltanto. Sì, ma no, su questo, scusami. Se gli attribuiamo questa tassatività, dico che probabilmente un pochino non lo vediamo anche lui nella sua complessità, tutto qua. Non è che ho fatto anche perché la psichiatria italiana in quegli anni non è che fosse brillante, insomma, probabilmente anche l'antipsichiatria non lo è stato. No, certo. Che lei, ma io ho un difetto, che a Padova l'ospedale psichiatrico non era un lager. Certo. Non si usavano camicie di forza. L'elettroshock proprio, e poi io l'ho sempre rifiutato. Si facevano riunioni tutti i giorni per studiare il paziente. Però questo era Padova. Negli altri, non so quanti erano lager. Quindi che quello andava affrontato. Quindi non ho fatto eccetera, male. Ma quella è assistenza. Quindi non quello è fatto politico, quindi come non... adesso può essere quello delle carceri, eccetera. Sì. Ma non si può per questo abolire la ricerca sulla realtà mentale umana. No. È questo. Ma quindi il volevo dire di Basaglia è questo. Non abbiamo fatto male in un modo un po' traumatico votando contro la legge. Bravo. Perché io tu hai votato contro la legge. No, ma l'ho promossa in tutti i modi, nel senso che certo. C'era il referendum che avrebbe chiuso tutte quante certo, i manicomi, diciamo, no? Ma loro a questo punto, pur di continuare a mettersi d'accordo PC e DC, questo era, diciamo, il motivo delle loro presenze. Basaglia aveva detto non è matura la cosa. Sì. Io anche dicevo non è matura, ma voglio dire, noi dobbiamo convertire i luoghi di cura, che sono invece luoghi lager, in altro. Non era previsto una sola lira nella legge. Non è tanto quello. Previsto in altro, perché lui non voleva nemmeno i reparti. No, ma non lui Basaglia, dico adesso a livello politico. Basaglia non voleva nemmeno i reparti psichiatrici né ospedali generali. Sì, sì. Cioè sì. La cura non ci doveva essere. Sì, no, infatti mette che il ricovero è di un 7 giorni. Ma che ci fai con 7 giorni? Manco ti rendi conto chi è? Certo, ci vogliono almeno 7 mesi quando affronto una crisi. Certo. Cioè ha messo la cosa che poi è andata a finire, questo poi mi interessa. A livello culturale generale, per cui la malattia mentale era soltanto un disturbo, un'incazzatura. È un conto all'incazzatura, per cui vado dall'amico che mi consola e mi calma con una bella bottiglia di cognac, sì, di quello buono, ma quella è una cosa, la malattia mentale è ben altra cosa. Certo. E lui ha unificato tutto, questi si chiamano delitti, e difatti viene detto da tante persone, fino a Garattini, eccetera, che togliere la cura a un ragazzo di 15 anni che fa le prime crisi psicotiche è un delitto contro l'umanità. Sì. Battaglia ha fatto un delitto contro l'umanità. Scusa, prima parlavamo di depressione, voglio dire, è indubbio che c'è stato un enorme salto quando a Pisa qualcuno ha detto che invece si trattava d'altro, e è iniziata la cura della depressione anche attraverso strumenti biochimici e chimici, no? Quello è stato un momento fondamentale, perché altrimenti la depressione non si capisce come. Beh, quella lo chiamavano esaurimento.